strade parlano di te. C'è un eco tra i palazzi, solo confusione. Suonano campane, intonano il tuo nome. Urla ad alta voce la rivoluzione. Quando venivi era un giorno di sole. E se pioveva la pioggia cantava. Se vuoi sederti racconto una storia. Di Botticelli sei la primavera. Senza un prato, senza un fiore. Le farfalle muoiono da sole. Senza odio, senza amore. Non mi serve a niente questo cuore. Ed ho cercato di dimenticare. Ma non è mai facile. Incanto e poi rivoluzione. La nascita di Venere. Ora che non ci sei, sai che mentirei a dire tutto ok. Io che ti ritrovo ancora dentro ogni canzone, negli sguardi sconosciuti di queste persone. Tra i palazzi nelle strade solo confusione, urla ad alta voce la rivoluzione. Ti va di fare un altro giro in centro o preferisci fare l'autostop? Hai ragione, sì, sono un bastardo, perché alle volte non so dire no. Troverò i nostri baci sopra un letto di nubi. Tra un minuto domani, nel futuro, nei mai. E mentre penso al passato, sento il tempo che avanza. Tutto ciò che mi hai dato, penso non sia abbastanza. Ti prego un ultimo bacio, almeno un ultimo ballo. Sei soltanto passato che non tornerà più. Ti avevo fatto una promessa, ricordi? Io Romeo e tu Giulietta, Shakespeare. Hey, ora che non ci sei, sai che mentirei a dire tutto ok. Io che ti ritrovo ancora dentro ogni canzone, negli sguardi sconosciuti di queste persone. Tra i palazzi nelle strade solo confusione, urla ad alta voce la rivoluzione. Ti prego un ultimo